pace e criminali in paradisi fiscali mangiano cibi pompati e prodotti derivati da monoculture sterili, monoculture, polvere tra gli scaffali, i discorsi a certi orari paiono temi scontati sugli anni bruciati da fidanzate e prestiti, da finanziarie, da fidanzate e prestiti, da finanziarie. Chiacchiere su sui giornali, la carta costa e quanto costa una bugia detta tutti gli orari su tutti i canali, ma sono ancora vivo per restarne fuori, si sono ancora vivo per portarvi i fiori. Ultimi minuti per godersi la città in agosto, è uno strano posto e me ne sto al mio posto. Le lavanderie a gettone, se gli chiedo un'opinione loro mi danno sempre ragione. Ultimi minuti per godersi la strada in agosto, è uno strano posto e me ne sto al mio posto. Contro ogni previsione, le lavanderie a gettone loro mi danno sempre ragione. Delle galere, lei ti fa fare un salto professionale eccezionale, da ladro di mele a delinquente di mestiere, da ladro di mele a delinquente bla bla bla. Sono uno stronzo, sono un cretino, e certe volte ti sembra di essere cresciuto assieme al secondino che fa la tua stessa vita, stipendiato, stesse spalle, stessi corridoi, stesso stato e tempo a voi, a fissare i soffitti, a suonare le sbarre, a guardare il sole e la luna strisce, a chiedermi, a chiedersi, a chiedersi, chiedersi, chiedersi, a chiederti a che ora finisce. Ultimi minuti per godersi la città in agosto, è uno strano posto e me ne sto al mio posto. Le lavanderie a gettone, se gli chiedo un'opinione loro mi danno sempre ragione. Ultimi minuti per godersi la strada in agosto, è uno strano posto e me ne sto al mio posto. Contro ogni previsione, le lavanderie a gettone loro mi danno sempre ragione. E ogni tanto ammazzano Stefano, perché la pena di morte non è mai stata abolita in questa terra di mezzo e di panico, dove non contano gli altri, dove non conta la vita. E se hai passato un altro giorno a riempirti gli occhi di Roma e a stupirti ogni volta come se fosse la prima, come se fosse il primo giorno fuori di prigione, a lavarti le tue robe alle lavanderie a gettone, a lavarti le tue robe alle lavanderie a gettone, a lavarti le tue robe alle lavanderie, a lavarti le tue robe alle lavanderie a gettone.